notte d'inverno con Cesare e Mario, successe per caso, ridemmo da bestie, salimmo al vulcano. E cadde una roccia e una roccia mi venne sul capo, ed io ancora lì sto. Brancicai tra la nebbia la vita, afferrai solo il vento che via mi portò, poi il respiro cercai. Nel ricordo senza dolore del suo corpo di schiuma e miele, che trema sotto i fianchi, sotto i colpi amanti, bianchi di felicità. Mondo fatuo, mondo crudele, mi hai amato, mi hai fatto male, animale senza tempo, vortice di voci, figlio dell'ambiguità. Desideri ne ho avuti, indotti e voluti, bestemmie e miracoli, e poi una gabbia di matti, un gioco di scacchi, di brividi, schiaffi, di guai. Sono nato perché non capisco, perché non resisto, perché non esisto. Infinito del fiume cucchiaio. Piangere sai di me, perché anch'io sono come te, perché anch'io avrei voluto essere migliore, non spezzato in gioventù. A te dico di continuare attraverso il comune errore, a cercare dietro una tela sbiadita che sembra, ma vita non è.